Fabulous Thunderbirds. E rock and roll. E il rock and roll di Rock FM. Good rocking tonight. Step outside and tend your hide. Well, maybe next time you think twice. Maybe next time you think twice. Maybe next time you think twice about what you see. Kim Wilson, Jimmy Vogel. Fabulous Thunderbirds. Che uomini questi qui, ragazzi, che uomini, che uomini. Bene, la prossima, cari miei, quando ormai sono le 2:20 e il telefono squilla molto meno. Qualcuno ci ha provato poco fa, l'ho dovuto lasciare in attesa perché stavo parlando e poi non ci ha riprovato. Potete sempre lanciare anche voi l'urlo, non lasciate lanciarlo soltanto a me, non lasciare che sia soltanto io a lanciare l'urlo di Good Rockin' Tonight. Allo 0267 09 132 si può urlare. Ecco, già suona, rimani lì che non ti spostare, perché a te ti voglio far gridare. Bene, allora la prossima la cantiamo tutti quanti, eh? È facile, fa Deep Down in Louisiana, Across in New Orleans. Wow! Play a guitar just like a ringing. siete pazzi! Ma siete pazzi! Say you're gonna stand here with nobody else but me. I believe what you say when you say you don't kiss nobody else but me. I believe, do believe, I believe, I believe, pretty baby. Believe you're gonna stand here with nobody else but me. Well, there's one thing, baby, that I want you to know. When you're rocking with me, don't rock too slow. Move on in and get toe to toe. We're gonna rock till we can't rock no more. I believe, do believe, I believe, I believe, pretty baby. Believe you're gonna steady with nobody else but me. You don't miss nobody else but me. I believe what you say when you say you don't kiss nobody else but me. I believe, do believe, I believe, I believe, pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Well, when you kiss me, baby, and you roll your eyes, I get a funny feeling like I'm hypnotized. Chills run all up and down my spine. Make me know that you're mine, all mine. I believe, do believe, I believe, I believe, pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Oh, yeah. I believe, do believe, I believe, I believe, pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia, che spettacolo, grida Andrea di Firenze. Go, go, Rock FM, go! Ehi, ehi, ehi, ma se mettete questa musica non andrò mai a letto, siete grandi. E allora io provo a mandarti a letto con questa, vediamo. Of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Grandi emozioni per la canzone e per l'interpretazione che ne danno anche loro. Josh Crow e David McLaughlin, sconosciuti? Sì, sì, immagino che siano sconosciuti ai più. Sono un duo che esegue, pensate, musica bluegrass. Hanno fatto insieme questo album di solo pezzi per chitarre, due voci, e hanno preso in esame anche gli Everly Brothers. Lo so, questa provocazione di voler mandare a letto con All I Have to Do is Dream, sapevo che erano semplicemente. No, lo so che andate avanti con me fino alle 8 del mattino, lo so anche dal numero di messaggi che mi sta arrivando. Qualcuno era in attesa al telefono, ahimè è caduta la linea, rifatelo, ricomponetelo il numero 0267 09 132. E visto che abbiamo citato gli Everly Brothers, magari loro una bella versione di un brano altrui, per esempio di Little Richard, tenetevi fronte perché questo è veramente forte. Lucille è un salutone alla Skitty, mia sorellina. Gli Everly Brothers, Phil e Don Everly. Gli Everly Brothers ci hanno fatto ascoltare grandi canzoni, ma magari non tutti sapevano che hanno preso in esame appunto anche questa Lucille di Little Richard. Qualcuno con tante scuse dice che si deve alzare alle 8, quando io alle 8 invece finisco la trasmissione. Va bene, stai tranquillo. Ti perdoniamo. Qualcun altro, porca miseria. È incazzato nero, si chiama Samantha, per i vicini rompiballe perché gli dicono di abbassare la radio. Ma io non li capisco, sti vicini qua, no, davvero, no, questa gente non la capisco. Che accendano anche loro Rock FM. No, beh, scherzo. Massimo rispetto anche per i vicini di casa, e quindi fai bene a metterti le cuffie, tanto si balla anche con quello. E ora, abbiamo citato Little Richard, e allora... Call in the alley. Ce la fate? Ce la fate? Sì, Mauri, ci siamo. Dai, dai, dai. 3, 2, 1. Rocky! Sono ragazzi, sono ragazzi. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Make a pretty baby a Sunday coat. Oh, did they call a bell cat? To make a pretty baby a Sunday hat. Won't you come to my house with black cat bones? Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Oh, dilly, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth. Jungle. Jungle music. Inchiniamoci davanti a lui. Il suo nome è Bo Diddley. Un grande, ogni tanto ci piace ascoltare le canzoni, anche le sue canzoni anche da altri, e non sono in tanti a fare le canzoni di Bo Diddley. Per esempio mi ricordo di George Thorogood. Hai detto George Thorogood? Oh yeah, George Thorogood. Born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. To the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad. Bad, bad to the bone. a rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. George Thorogood, è lui, George Thorogood, quello che dovevano eleggere presidente al posto di George Bush. George Thorogood e i suoi Destroyers, Destroyers dal punto di vista musicale, solo che poi sono assolutamente innocui, anzi sono tutti dei bravissimi ragazzi. Eh sì, l'abbiamo ascoltato con Bad to the Bone, che è una canzone che è un inno, davvero meravigliosa. Sono le due, sono già le due, ma abbiamo ancora tanto davanti a noi. E il secondo gruppo della serata si sta organizzando proprio in questo momento. Hanno portato degli amplificatori che ne basta la metà, ma questo quindi vuol dire che questi picchiano duro. Li terremo a bada. Sembra, hanno un aspetto da bravi ragazzi, vediamo un po' come si comportano. Allora, questa è Good Rocking Tonight, si va avanti fino alle 8 del mattina, quindi abbiamo davvero davanti a noi una lunga notte. Potete gridare Good Rocking Tonight quanto volete, anche attraverso il microfono di Rock FM, chiamate allo 02 6709 132, ma potete anche gridare Good Rocking Tonight senza telefonare, gridatelo quanto volete. Se volete scrivere 335 100 77 77. Mi chiedevo, ma Roberta, ma si sintonizzerà Roberta oppure no? È certo che Roberta, quella che mi manda i baci di solito, è ormai diventato, siccome ne ho quasi un'esigenza fisica, allora sì, si è sintonizzata anche stavolta. Un bacio anche a te, Roberta. Poi è arrivato un bel messaggio all'1:53, lo leggo soltanto ora. Sentite, Ciao DJ Faulisi, mi sono appena sintonizzata e volevo chiederle un favore, mi dà del lei, volevo chiederle un favore, visto che questa forse è l'ultima chance che avrò. Chi l'ha detto? Mi può dire chi canta Hello Josephine, How Do You Do? L'album è l'anno di questa canzone che io semplicemente adoro. Ho cercato su internet questa informazione, ma ho trovato 100.000 band diverse. Con l'H. Anche questa Dream è meravigliosa, ma Viva Las Vegas del mitico Elvis la mette. Se la mette, io la dico. e io la dedico a mia sorellina Mari Forever. Grazie di tutto cuore, non solo per oggi ma per tutto questo. Ho imparato un sacco di cose, grazie ancora e complimenti per la cronaca. Ho 22 anni, smack, Carolina da Genova. Carolina, sei grande. Si chiama Fats Domino, Carolina. Un bacione anche a te. Grande, l'enorme anche fisicamente Fats Domino, classe se non vado errato 1922, non ricordo l'anno di incisione di questa Hello Josephine, anzi intitolata My Girl Josephine, credo che sia 59 o 60. Adesso quando smette di girare l'LP, perché è un LP, il Faulisi stasera vi ha portato gli LP. Allora dirò a Carolina che anno ha inciso questa canzone il nostro Fats Domino, che quasi Katrina ce lo portava via. Per un attimo abbiamo sofferto un po' di ansia, poi al telegiornale è ricomparso come... E noi abbiamo fatto una standing ovation, abbiamo fatto la ola a casa mia. Eccolo qui, Fats Domino è tornato, meno male. Allora, sono le 2:05, ci siamo quasi, stanno montando la batteria, tenetevi forte perché stamattina. A proposito, chi si prende l'impegno di portare un cappuccino, anzi un caffè macchiato verso le 7:30 al Faulisi in via Locatelli 1? Io ci conto, ragazzi, Perché qui è dura, fino alle 8 del mattino è dura. No, scherzo, è un piacere, un gran piacere. Tra l'altro adesso io mando in onda Let's Have a Party di quella gran donna di Wanda Jackson, poi mi prendo una pausa di 6 minuti e vado a darmi una rinfrescata e vado una pausa di 6 minuti che si chiama Ray Charles, mica una pausa così, Quindi siete pronti per quella Elvis in gonnella che era, anzi che continua a essere, Wanda Jackson? Let's Have a Party! 1960, esattamente il 1960, quando la brava Wanda Jackson andava cantando nel luglio del 70 questa Let's Have a Party, Let's Have a Party. Ed era esattamente il 1960 quando il bravo Fats Domino incise My Girl Josephine. Lo dico adesso, non lo dico prima, perché finalmente l'LP ha smesso di girare. Ho provato a guardare, siccome era scritto nell'etichetta dell'LP che continuava a girare, ho provato a dare un'occhiata, ma stavo per vomitare sul disco. Aspettiamo che si interrompa. Allora, altri messaggi, ragazzi, siete incredibili, siete una valanga. C'è qualcuno che ecco, che soltanto ora si riesce a capire che Rock FM sta per chiudere. Ciao, raramente si riceve bene Rock FM a Pistoia, ma credo di aver capito che chiudete. Spero non sia vero, ma puoi darmi notizie. Grazie, Ugo. Sì, Ugo. È proprio vero. Ce l'hanno detto un paio di mesi fa, e noi è un paio di mesi che lo diciamo alla radio, ed è un paio di mesi che riceviamo messaggi tipo, non so, ma se blocchiamo Milano per una settimana a forza di cortei, dici che Rock FM potrebbe avere qualche speranza? Questi sono Dani e Ele. Ma la speranza di buscarle dai Celerini, sì. Che un corteo possa far cambiare idea all'editore? Ma forse no, forse no, forse sì, non lo so. Pacifico però, ok? Genius, lui, il genio, Ray Charles. Un saluto anche a Luisa. What's that? What's that? What time? The Genius, il grande Ray Charles che abbiamo ascoltato verso la fine degli anni 50 con quel grande classico e mi ripeto di What I Say. Anche di questa ne hanno fatte un po' di versioni, ma rimane l'originale, questa con il cori, tutto il resto, l'inizio, il piano, batteria, ecco, questa rimane in assoluto la migliore, sarete sicuramente tutti d'accordo con me. Ancora, insistete, tenetemi compagnia al 3351007 in questa lunga notte di rock and roll che si spazia. Abbiamo ascoltato tanto rock and roll, abbiamo ascoltato rockabilly, fatemi pensare, un po' di rhythm and blues. Ecco, forse è il caso che comincio a mettere ordine tra i dischi di surf. Che ne pensate? Non prima di avervi fatto ascoltare Get Gone. Sì, quelli di Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, Love Me. California, here we come! Why questo punto so cosa vi state aspettando. E io non ho nessuna intenzione di deludervi. Oh, well, everybody said about the bird. Portatelo via. Era il 1964. E lì, lì rimaniamo. Nella California del 1964 con i Beach Boys. Shake it off quick. Dance, erano i Beach Boys nel lontano 1964 e questa non mi era ancora successa. Micio, ma sei un amore, questa canzone la volevo e tu me l'hai data, hai capito? Ancora del Micio non me l'avevano dato. E allora se vogliamo proprio innamorarci, il contributo degli Skyliners ha la sua importanza. È il vostro Micio a dirvelo.